tue apatie. Ti piace usare gli uomini e decidere, comandare, scroccare, essere al centro del mondo. Ti ho ascoltata, ti ho pensata, c'ero quasi cascato in quel trucco ben creato, ma ormai ho capito. Sì, lo so, mi hai ferito, umiliato, mi hai confuso, e vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Resterai come sempre a vagare nella notte provocante, scostante, maliziosa, invadente. Ora basta, mi hai scocciato, mi hai deluso, mi fai schifo.